Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria, una tappa della musica di domani. E bentornati a Fermata Provvisoria, al contributo del martedì di Fuscico Factory. Io sono Samuele e oggi parleremo di una rock band pugliese che si chiama Giunto di Cardano. Fin dall'inizio il trio ha fatto della dimensione live la propria veste più rappresentativa. Nel corso del 2017 ha fatto un tour di quasi 100 date in tutta Italia, aprendo anche a gruppi come Zen Circus e Management del Dolore Postoperatorio. Hanno partecipato anche a diversi festival come il MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, e il Medimax di Taranto, in cui suonano prima di Editors e Cigarettes After Sex. Nel 2018 hanno vinto la 30ª edizione del Rock Contest contro Radio e quest'anno invece hanno vinto il bando Puglia Sounds Records, ottenendo un finanziamento dalla regione per la realizzazione del secondo disco, dopo aver autoprodotto e pubblicato nel 2017 il primo album Kadima. Il secondo lavoro discografico, Chaos, uscito ad ottobre 2019 per Santeria Records, riporta in studio la tendenza del gruppo alla dimensione live, con 13 tracce che si pongono l'obiettivo di ricercare e proporre suoni e parole che possano dare una soluzione al disordine interiore. Ma sicuramente ne parleremo meglio con il leader della band, Giuseppe Colangelo, subito dopo il singolo Ritratto del Dottor Gachet. Restate con noi. Ciao Giuseppe, benvenuto su Radio Città Fuscico. Ciao, grazie a voi, ciao. Ciao. E allora partiamo con una curiosità. Il giunto di cardano in ingegneria meccanica è un organo di trasmissione che permette il passaggio del moto tra due assi in rotazione. Ecco, come mai questo nome? Allora, ti potrei dare la spiegazione filosofica perché noi trasmettiamo musica, invece no, semplicemente questo nome mi fu suggerito da mio fratello che appunto studiava ingegneria e lui mi disse che se avesse avuto mai una band l'avrebbe chiamata giunto di cardano. Lui non l'ha mai fatta e alla fine l'ho fatta io una band e quindi diciamo gli ho rubato il nome. Mi piaceva che come suonava perché ha molto di prog italiano, tipo premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso. Infatti. E quindi mi piaceva questa cosa qui. Ok, e ci racconti un po' come è nato il vostro progetto? Senti, come penso tutte le band, come tutti i progetti musicali, è nato quasi per diletto. Ci siamo trovati io, Mariano e Davide, volevamo giusto provare a suonare qualcosa giusto per divertimento e infatti abbiamo iniziato circa nel 2011 se non erro, e poi comunque suonando la cosa migliorava sempre di più fino a quando abbiamo detto oh ragazzi dai, perché non ci proviamo a farla seriamente, e quindi siamo arrivati ad oggi praticamente. Ok, quali sono invece le influenze che si possono ritrovare nella vostra musica? Le influenze sono molto diverse, soprattutto nel corso degli anni magari ci sono tanti gruppi o tanti cantanti sempre di riferimento, però magari in un determinato periodo si ascolta maggiormente uno piuttosto che un altro. Ti posso dire che per esempio della scena musicale italiana i must sono Verdena, After Hours, Litfiba, soprattutto quelli degli anni 80, CSI, CCCP, questo. Poi per esempio per quanto mi riguarda personalmente io sono un grande fan di Battisti, oppure della musica straniera come possono essere i Pink Floyd, Beatles, Oasis, dipende un po' da David Bowie, dipende un po' dai momenti. Certo. E la vostra band fa della dimensione live la sua veste più rappresentativa e sì, lo si sente anche nei due dischi. Ecco, anch'io sono musicista e sono pienamente d'accordo con questa cosa. Tra l'altro è una questione davvero molto interessante perché alla fine il musicista è solo tramite il suonare dal vivo che può trasmettere ed esprimere totalmente la sua arte, no? Sì, perché fondamentalmente è lì che si viene a patti, diciamo, col pubblico. Diciamo che in studio si possono fare tutte le congetture del caso che servono per il brano, però poi devi andarle a suonare dal vivo ed è lì che si testa la forza di una band oppure di un cantante, oppure se effettivamente può piacere o meno, perché comunque non è soltanto la canzone in sé, ma oltre alla canzone c'è anche l'emotività che può trasmettere un live, e quella non la si batte con Spotify, cioè diciamo il live è al primo posto in questa cosa qui. Infatti. Ecco, a proposito di questo, come vivete il rapporto con il pubblico durante i concerti? Sì, no, molto. Diciamo che siamo, almeno personalmente, io sono il cantante, diciamo questo è un mio difetto, non sono una persona che diciamo intrattiene il pubblico, dai ragazzi battete le mani con me, cioè io cerco di suonare il più possibile. E spesso questa cosa qui viene fuori perché io cerco sempre di trasmettere con la musica, cantando, incazzandomi quando ci sono i momenti in cui incazzarsi, diciamo da un punto di vista musicale parlando. Certo. Infatti ti faccio un esempio, il Rock Contest a Firenze, cioè alla fine quello hai un tot di tempo a disposizione, quello che abbiamo vinto l'anno scorso. Sì. Quindi io sono salito sul palco, bam bam bam, suonato ed è piaciuto per fortuna, quindi diciamo che cerco di far parlare più la musica piuttosto che me stesso, diciamo. Certo, tra l'altro anche i Verdena, ad esempio, fanno moltissimo questa cosa, cioè trasmettono attraverso la musica, non intrattengono tanto durante il live, però intrattengono dall'altro punto di vista, cioè totalmente cioè a livello musicale. Sì, praticamente sì, quella penso o ce l'hai o non ce l'hai, magari puoi costruirci qualcosa, però devi avercela. Se sei un frontman di quelli, più che altro sui cantanti, io non lo so, magari posso migliorare su questa cosa qui, cercherò di migliorare un po', però cerco di essere il più diretto possibile adesso. sai se ci ho incluso ieri. Cloro paterno, cresco un fiore nel mio corpo. Chiedimi in fondo cosa io vorrei. Ci racconti un po' invece del vostro secondo album Chaos, sia a livello musicale che a livello tematico. Allora, per quanto riguarda il livello musicale, diciamo, è un proseguire, diciamo tra virgolette, quello che abbiamo fatto nel nostro primo disco, Kadima. Sì. Comunque noi siamo sempre noi tre, quindi con quei gusti musicali che ti ho detto già prima. Per quanto riguarda invece le tematiche, io penso sempre, ti parlo in prima persona perché sono io che scrivo i testi, le musiche le scriviamo tutti e tre insieme. Okay. Invece per quanto riguarda un testo, per me rappresenta la fotografia di un momento o di quello che si sta vivendo. Stavo vivendo un periodo un po', diciamo, burrascoso, e quindi è venuto fuori questo disco dal titolo Chaos. Perché alla fine il disco ruota attorno al tema dell'assenza, che l'assenza che è legata per esempio alla fine di un rapporto, alla fine di un legame, oppure la perdita di una persona cara. E quindi questo scaturisce una serie di stati d'animo contrastanti, accettazione, rassegnazione, non accettazione, non rassegnazione, quindi il caos. E senti, passiamo ad una domanda un pochino più ampia. Cosa ne pensate del panorama rock italiano attuale? E come si fa, secondo voi, a proporre qualcosa di nuovo e di originale all'interno di questo mondo? Allora, lo sai che mi aspettavo una domanda del genere sul panorama musicale di ah, oggi? Sì? Mi ha detto, ma chi sta che mi fanno una domanda del genere? Cosa risponderò? Allora, cercherò di improvvisare. Allora, diciamo che per quanto riguarda il panorama musicale italiano di oggi, ci sono cose che mi piacciono e altre un po' meno. Diciamo che adesso va in voga un determinato genere. Non lo so, a me piace pensare che magari c'è sempre spazio per una cosa un po' più diversa rispetto a quello che diciamo, adesso vogliono ascoltare un po' tutti o vogliono proporre un po' tutti. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, sì. Più o meno, cioè, cerco sempre che, per esempio, in un pubblico così basso, magari c'è pure quello che ti è un po' stancato di sentire sempre la stessa solfa. Boom, e arriviamo noi, magari, spero, a soddisfare i palati. Concerti in programma prossimamente? Allora, sì, grazie che me l'hai ricordato, perché sennò dimenticavo di nuovo. Allora, praticamente continuiamo questa settimana a fare dei concerti dalle parti nostre, soprattutto in Puglia, e poi il 6 dicembre saremo a Bologna al Covo. Ah. Quindi mi raccomando, siateci tutti, veniteci a trovare e a sentirci dal vivo. Ci saremo, anche noi. Sì, sì, perfetto, grazie. Bene, Giuseppe, grazie mille per l'intervista e un grande in bocca al lupo a te e alla band. Speriamo di vederci a Bologna allora, a dicembre. Sì, sì. Volentieri, lo spero tanto, grazie. Bene, grazie. Ciao, grazie a tutti. Bene, quindi, vi ricordo che Il Giunto di Cardano si esibirà venerdì 6 dicembre al Covo Club di Bologna. E con questa notizia scoperta durante l'intervista, io vi saluto. Ciao e alla prossima.